non è solo questo, sei d'accordo? Assolutamente. Però allora, dov'è che io, dove la mia posizione può disturbare la vostra individualità? Perché una è quella radicata. Dinamica, una è questa dinamica che è fondamentale. Questa cosa che è successa non è una cosa così, è una cosa fondamentale rispetto al lavoro di strada. Sei convinta che si sia sollevato questa roba per quel mio lavoro lì o per questo? No, no, ma in generale lui ce l'aveva con tutti, assolutamente. Tutti, ma sicuramente ce l'aveva con gli atteggiamenti che erano anticonvenzionali. Secondo me è stato, cioè, il fatto che lui non vuole che le ringhiere si rovinino, ma perché quella ringhiera che era utilizzata in un modo che lo scioccava. Certo, ma... Certo, allora, però il punto come è che tu come ti poni? Ti poni che tu dici la necessità o l'urgenza, ma allora qual è la necessità di fare questo? Io non la sento con la necessità di scioccare quello, perché quello non è che è fatto così, a me mi faccia esistere un altro modo, cioè... non c'è quella massa critica, capito? Arrivare a quello che dici tu, devi arrivarci, devi arrivare come gruppo, devi arrivare come individuo a sviluppare, altrimenti diventa una... cioè, innanzitutto diventa perdente, perché lui veramente, lui li chiama davvero i carabinieri e arriva Giannella e ci dice andatevene via da qui, perché non è neanche il nostro festival, capito? Tu devi, a un certo punto devi concordare. Per poter arrivare a un obiettivo ci sono anche delle strategie da mettere in atto, perché il rischio sono quello di non ottenere niente di quello che... Ma io ti invito a guardare la cosa, ma non era solo quello, mosso, era anche stata quello così che stava succedendo corta, lì. Così corta, è stata così piccola. Quale? Questa cosa. Ma lui ti ha visto da prima, questa cosa è stata la conseguenza di un accumulo di... fastidio che si è generato. Ma effettivamente, in maniera effettiva, che cosa non ha funzionato? Dimmi. Perché che cosa può aver mosso qualche cosa? Allora, quello che non ha funzionato... Gli ho fatto un gancio così da qua, gli ho detto fatemi... Ma scusami... No, veramente, non ho mosso nulla che non fosse una lucertola che gira là sopra. Cioè, la forza che tu porti nel modo in cui organizzi il tuo corpo, la tua espressione, la tua energia, non è una cosa da poco, è una cosa molto densa. Se tu non ti rendi conto di questo, sembra strano che tu ti rendi conto. Sì, mi rendo conto, ma io lì stavo pregando, lo stavo rompendo. Cioè, se questo si muove così in maniera dinamica, ma pregando, e gira però, così tu non forte, puoi pensare che diventa una cosa che poi deve avere dopo, perché io questo posso portare. Ma allora, se l'esigenza è quella di non inibire il tuo legittimo necessità di... indagare certe, diciamo, dimensioni e stati espressivi, io quello che farei e che ti consiglio è di creare lo spazio protetto, perché in uno spazio che non è protetto, quel tipo di eleganza che tu chiami è interpretato in un modo totalmente diverso. Allora, se tu vuoi attraverso il tuo concetto di eleganza creare conflitto e rigetto, allora no, ok, assolutamente, ma è quello però che so si che crea. So che arriva, so che una percentuale arriva. Quando preghi tu, cosa. Se me lo porti come preghiera, io quando prego in una dimensione molto protetta in cui non, faccio in modo che nessuno vada a intaccare questa cosa, ok? Quindi in questa situazione era ovvio. Ma infatti lui è l'unico momento dove si è sentito libero di intervenire, è stato quando abbiamo perso quella dimensione là, quando siamo entrati qua, se fossimo continuati a rimanere là e a portarlo dentro una storia, ci sarebbe stato. Ah, si è sentito libero di intervenire così, quando ci ha visto rilassati, parlare, dire venite un attimo qua. No, non è vero. Quando non eri solo tu, stavi là, però c'era lui che stava lavorando sotto. Però probabilmente un utilizzo delle ringhiere più neutro, chiamiamolo così, forse l'avrebbe anche accettato. Quando sono entrati dei segni che non sono neutri, quindi gli muovono le viscere, lui si ribella, capito? Ma l'azione creativa, l'azione performativa, forse dipende dal valore che do io all'azione performativa. No, ma il punto è come tu arrivi. Se ti rivolgi a un'utenza, è per muovere qualche cosa, se devo spazzolargli i capelli... Sì. No, vabbè, ho capito, però... Il punto è come ci arrivi, cioè la comunicazione non è solo una cosa fissa, è un processo di entrata, di uscita, di varianti, no? Cioè non è una cosa così. Ci sono state miliardi di microdinamiche, solo lui si è sentito in dovere di fare questa cosa qua. E ce ne saranno miliardi, questo dico, tutti gli altri che c'erano intorno si sono affacciati, hanno trovato qualche cosa, si sono portati qualche cosa dietro. E questa è l'unica cosa che possiamo fare ponendoci come... Secondo me noi perdiamo l'obiettivo, cioè il nostro obiettivo è un lavoro in strada con il tema aria. E stiamo cercando, dopo tutto il laboratorio che abbiamo fatto, di trovare questo, no? Quindi portare un'immagine di aria in una dimensione di strada, in una cosa tipo quella che stavi facendo tu prima. A livello di immagine arrivava a qualcos'altro, non so come dirti, cioè si può fare con dignità il tutto, si può fare, non dignità, scusa, ho sbagliato il termine, si può fare con giudizio anche, nel senso che quello stesso tipo di energia la puoi creare anche in una maniera che non vada ad impattare molto strong nei confronti delle persone. Poi ripeto, è un percorso, nel senso... Signore, io mi metto assolutamente in un'altra posizione nei confronti dell'intervento performativo in strada, perché... Sì, cioè, ma non per, ma devi pensare al contesto, non è un intervento performativo, stiamo iniziando a costruire l'intervento performativo. Immaginatevi voi, se questo sì, è quello ma per esempio, anche tu, adesso, nella situazione in cui stavamo iniziando a esplorare lo spazio, ti sei staccato subito da solo con quell'azione, che per me è anche bella una così, assolutamente, però ti sei ancora una volta, perché è successo spesso questa moda, che tu ti stacchi completamente, perdi le radici completamente dal gruppo, ti stacchi completamente, prendi il volo. Io come artista voi li apprezzo, però è un'altra cosa quella che stiamo facendo qui adesso, cioè se ognuno di noi prende il volo come lo prendi tu, non succede che ognuno fa delle cose individuali, si stacca e si scolla il tutto. Cosa vogliamo fare? Incollare delle cose o scollare tutto? Scollare la presenza tutto. Qui, stiamo scollando tutto. Che si scolli tutto, prima quando abbiamo provato... Questa, la dimostrazione di questo succede, è scollato qui, perché non stiamo lavorando, stiamo discutendo, è scollato tutto, si è scollato tutto. Perché per non è se invece c'è un precedente che conferma la necessità e l'urgenza di apprendere la situazione con una modalità diversa di approccio, che non è quella della protezione, perché l'istanza della protezione non ce l'abbiamo. No, però la protezione nostra di gruppo la possiamo creare, e la protezione certo, la dobbiamo creare anche andando, cioè, prima, per avere un'idea di quella di qual è la... Ogni gruppo ha necessità di una gabbia di protezione differente, e la crei mettendoti dentro il chiaro, contesto. Chiaro, però bisogna in cui farlo ti insieme, serve. Bisogna entrarci insieme, bisogna mettersi lì e decidere che cosa fare. Questo stiamo facendo, perché se non ti arriva, se non vieni colpita, non sai quanta forza devi mettere per proteggerti. È così. Non sono proprio d'accordo, però. Cioè, il sistema immunitario si forma. Io non infilo attraverso... una mano in un nido di vespe così e vuoi vedere cosa succede. È differente questo, non c'è un nido di vespe. C'è una metafora. C'è una, capito? C'è una tonsillite che ti arriva e ti fai un attimo di anticorpi per essere. Secondo me, Mauro, tu sottovaluti un sacco di cose, abbi pazienza, pure. Cioè... sei sardo, lo sai cosa vuol dire in Sardegna la censura questo, del pongo come io come capisco, locale, allora, un'altra io capisco la tua veramente la rispetto e la capisco la tua urgenza di andare a provocare no, quel tipo no, di guarda, state sbagliando proprio questa, perché la definizione beh, però allora, è non assolutamente... allora se tu dici che non hai intenzione di provocare no. Allora non vedi quello che produci. Non sei consapevole di quello che produci. Sono consapevole di quello cosa? Che produco allora, e non, non voglio mi provocare. Che no, perché però non ti sono cosciente del fatto di metterti in relazione con gli altri. Pensa a noi che dobbiamo metterci in relazione con quello che stai facendo tu. Tu non ti sei posto neanche il problema. Io ho fatto noi 5 sì, minuti di un ma ti sto facendo di al di là di questa cosa. Aspetta, fammi finire. Allora, se io metto in un 1% di quello che faccio un'attenzione rivolta verso gli altri e come relazionarmi agli altri, io se mi devo relazionare a te ti giuro che non saprei come fare, quindi se fino adesso ho ignorato o ho evitato, ci deve essere una minima intenzione. Se l'intenzione è talmente forte di fare quello che stai facendo ma di non relazionarti con gli altri, tu non senti neanche quando ti chiamiamo. Quasi no, capito qual è il problema, quindi in quel senso scollare. Tu dall'altra parte della strada non stavi tentando di dall'altra parte del campo, non stavi tentando di relazionarti con me. E neanche io in questi 5 minuti stavo iniziando detto? A riscaldarmi e a trovare una mia dimensione per potermi poi entrare ma in contatto con te, perché abbiamo tutti tempi diversi. Sì, però aspetta un attimo, io l'ho detto milioni di volte, cioè non possiamo fare in strada come se fossimo nello studio. Ci siamo riscaldati per 4-5 ore, abbiamo cercato delle direzioni da condividere e da un po' per, che sono elementari, io sono d'accordo con te, noi stiamo cercando di ricostruire un vocabolario. Cioè il problema è che se non decontestualizziamo anche un po' quello che abbiamo imparato fino adesso, e poi è vero che per alcuni è più semplice perché siamo noi a guidare, quindi probabilmente quello che noi proponiamo per alcuni è più familiare, per altri è più, e io questo lo capisco e rispetto il fatto che uno ci arriva con me. Però penso che una cosa la possiamo condividere, che è quello del dar fiducia anche a quello che si sente e quello che si provoca. Cioè la reazione di quel signore è assolutamente prevedibile dopo 3 minuti in un contesto del genere. Ma anche perché io stessa arrivando qui e vedendoti in quella situazione, cioè riconosco la forza ma anche un certo disagio che nonostante ci abbia comunque esperienza di vedere, di fare io stessa, di entrare, però c'è sempre un disagio nell'esporsi, nelle vulnerabilità, perché il corpo non è verticale per niente, cioè ci sono storie culturali che ci hanno posturato in un certo modo, a torto spesso più che a ragione, ma non possiamo ignorare la storia dove siamo. Per poterla rompere dobbiamo, cioè o la rompiamo perché, ma io ho la sensazione che per arrivare a romperla così non c'è la massa critica in questo momento, c'è stata negli anni 70, negli anni 80, dove c'erano milioni di persone che andavano a fare lavoro nelle piazze, che si, cioè, c'è stato un movimento, certo qualcuno, è vero, qua? Qualcuno la... Se non prendiamo quell'eredità, da dove partiamo? Non sto ripetendo niente, sistema, infatti io non mi sono abbassato le mutande, non ho urlato niente. Infatti non è quello, perché la cosa che hai fatto è piccola in un posto, ma è enorme in un altro. Sì, però no, allora è questo che però mi sembra che tu non ti rendi conto, che cioè di quello che provo per un contesto. Io mi rendo conto di tutto, mi invita voi a dirmi invece voi in che posizione vi mettereste. Allora aspetta un attimo, perché ascolta. Vi state proteggendo così tanto? Perché l'obiettivo è quello di creare dei ponti con queste persone e con il Time Jazz che ha investito 20 anni per esistere in questo luogo. Per esempio, dove dopo 5 anni li stavano sbattendo fuori perché ci sono in Sardegna delle dinamiche di perfidia e di inibizione fortissime. Allora gli artisti in Sardegna devono anche in qualche modo aiutarsi ad esistere in territori così che rigettano. Cioè se il punto è che tu sei in un territorio che rigetta, perché vai a fare una cosa che è sicuro che ti rigettino se vuoi esistere in quel territorio? Capito? E questa è la domanda. Perché vai a fare come punto di partenza? Perché magari ci arrivi e li porti con te. Li porti con te attraverso tutta la magia del teatro e la capacità di seduzione del teatro. Ma se tu inizi così, è sicuro che ti rigettano. Allora, fra 5 minuti dobbiamo fare valigia e andarcene, oppure ci picchiano per la strada. Perché è successo così. Ma lo so. Cioè, non è solo qui. Io ho rischiato la vita facendo una cosa come ingenua a Istanbul, un quartiere a Roma. Ho usato delle maschere, cioè, così come le ho usate in Sardegna, non è mai successo niente. So benissimo quello che stai dicendo, parlo con posizione di causa e dico che capisco le tue posizioni che sono dentro un'altra dialettica che parte da un punto di vista che è quello della tua professione, di quello che sei tu qui adesso in questo momento, però dal punto di vista creativo e performativo non sento queste ragioni. Capisco benissimo quello che stai dicendo, metto in pericolo l'equilibrio del gruppo e l'equilibrio di una tua posizione, di un tuo intervento con questa gente, con l'organizzazione, questo è chiaro e lo capisco. Senti, però ti posso dire una cosa, io penso che non funzioni anche perché tu sei troppo fragile per fare una cosa del genere. Cioè per fare quello che tu stai indicando devi maturare una consapevolezza umana e artistica che non hai in questo momento. Allora, questo non vuol dire che tu non lo puoi fare, però perché non c'è? Allora ti stai buttando allo sbaraglio, tutte le persone che stanno con te. Quindi il progetto è ambizioso, più si deve anche proteggere per raggiungere quell'ambizione, perché ripeto la stessa cosa, il rischio è quello di farlo crollare, punto. Prima che arrivi. Cioè, ho visto, per esempio, ti faccio un esempio, in Catalogna, nei paesi molto più piccoli di questo, ho visto delle cose ancora più osate, però c'era un altro tipo di entrata e di processo che si è prodotto in quel luogo, per farla esistere, e di storia, anche di storia culturale alla base. Cioè i catalani si scioccano di meno quando tu esponi la sensualità e la sessualità. Non puoi non tener conto di questo, perché allora altrimenti dimmi tu come facciamo. cioè, no, ti suggeri, posso dire una cosa, cioè il fatto del rischiare, secondo me, per quello che potrebbe essere interessante per te, per maturare come artista, questo non sta nel essere provocatorio, perché tu ce l'hai quella roba lì e ce l'hai e sei molto espressivo in quella roba. La roba che invece secondo me devi andare a esplorare tu adesso è il contrario, cioè metterti in gioco nell'apertura, metterti in gioco nell'ascolto, metterti in gioco nelle dinamiche che succedono con un altro tipo di direzione, capito?